24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ci fosse questa mozione di sfiducia nei confronti di Alfano, perché il PD non sembra convinto. E vuol dire che non c'è più il governo. Fonzi, bisogna tenerlo sott'occhio. Fonzi, secondo Daniela Santanchè, bisogna tenere sott'occhio Fonzi. Chi è Fonzi, direte voi? Ma chi è? Renzi, no, Matteo Renzi. Fonzi per Daniela Santanchè. E guardate, cari ascoltatori, che se oggi leggete qualsiasi giornale è proprio questo il punto. Per dire, uno prende la stampa. Renzi, due punti, stanco di questo PD. Vabbè, questo è 24 mattino, buongiorno cari ascoltatori, sono qui con Alessandro Longoni in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia, come sempre pronto. Sì, chi è? Milan, sei proprio un coglione. L'ho capito. È possibile che sei un pieva così, lavori in radio, Il mondo va così. Vabbè, pazienza, e Fonzi da tenere d'occhio. Voglio salutare subito Vincino, il grandissimo Vincino, buongiorno. Benissimo, Fonzi come va? Fonzi là, credo che abbia fatto il primo errore della sua vita. Perché Vincino adora Fonzi, Renzi. No, io l'adoro, però come dire, questa cosa dei suoi 13 senatori che si distaccano, cioè uno come dire, non va a cercare la sfiducia senza sapere cosa deve fare subito dopo. No? 13, poi uno più degli apostoli. Già il numero è sbagliato. I 13 senatori, effettivamente. Ieri è una gran giornata. Andiamo con calma. Prima voglio salutare Massimo De Manzoni, il vice direttore di Libero. Buongiorno. Buongiorno. Ormai facciamo coppia fissa con Vincino. Coppia assolutamente. Sentiamo, possiamo aprire il Parlamento intanto? Il Parlamento. Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento, forza gente, accorrete al Parlamento. Vabbè, insomma, Nicole Minetti è sempre qui. Oggi io non lo voglio. Tu continui. Che forse hai preso anche tu i suoi favori? Grossa col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Ho detto, se era distratta la signora, magari cominciava a gradire questo caffè di Nicole Minetti. Tra l'altro, Vincino, questa signora non l'abbiamo mandata in segreteria perché arrivano ore e ore di messaggi, ma aveva scritto: sono quella signora della sigla, siccome sono una povera pensionata, magari un assegnino, visto che ho fatto la sigla gratis. No, però dice: no, sto scherzando. Vabbè. Allora, ieri gran giornata, tutto giallo kazako. Il giallo kazako tiene banco e terrà banco fino a domani, pieno di retroscena. Alfano si dimette, non si dimette, Alfano non si dimette, è stato bloccato da Berlusconi. Letta, oh! Questo De Manzoni, Letta proprio oggi in un articolo di Francesco Verderami sul Corriere, un'analisi, dice sono come i due pugili Letta e Alfano, no? Che temono il doppio colpo, il colpo kazako al fegato e poi il gancione al mento che è la Cassazione il 30 luglio. E quindi cosa fanno? Si arroccano, si difendono, perché prima di tutto sopravvivere democristianamente, sopravvivere. Ma perché? Perché Massimo? Perché? Perché sopravvivere? Sopravvivere è l'istinto primario dell'uomo, quindi sì, politicamente. Ma è anche questo istinto primario dei governi normalmente, perché mondo è mondo. E secondariamente perché oggettivamente non ci sono molti elementi per far cadere un governo sulla vicenda kazaka, cioè sono un grosso pasticcio sicuramente. Però io sto con quei lavoratori sardi che l'altra sera in televisione gridavano: noi stiamo perdendo il posto di lavoro e voi siete lì che pensate ai kazaki. Questo un po' è vero, però la questione è che ogni azione, anche un fatto, può avere delle conseguenze, e se le conseguenze fossero si dimette, cioè vediamola così. Allora, si è dimessa dal ministro, idem per una questione dell'ICI e della casa. In una situazione politicamente normale e stabile dovrebbe dimettersi un ministro dell'interno che dice non sapevo che hanno fatto una roba del genere? In una situazione politicamente normale e stabile si potrebbe anche prendere in considerazione le dimissioni per responsabilità oggettiva, usando un termine calcistico. Esatto, però questa qui non si può. Non è una situazione normale e stabile, la ministra idem, con tutto rispetto, non contava un tubo e poteva essere sacrificata. Angelino Alfano è un perno di questo governo. No, ma è chiaro, poi, cioè, Alfano viene giù il governo. No, no, ma è chiaro, ma politicamente... C'è una forma di realismo nelle cose, no? Eh no, certo, politicamente, Vincino, non fa una grinza al ragionamento. Cioè, siccome potrebbe essere un caso da dimissioni, ma siccome vien giù tutto... Un socio Alfano, come dire, levi Alfano e levi il governo. Ho capito, ma poi, allora così si può fare di tutto. Ma Letta non è che ritorna, questo è il punto di Letta, e non è che io levo Alfano, metto... peggio che mai, mamma mia, schifo, ma non, una cosa è un'ipotesi, guardi, chi? Pazzesca, mettere Schifano al posto di Alfano è una cosa che non ci voglio manco Schifano. Credere che espatrio immediatamente, no, però no, va bene, vabbè, sì. No, perché Schifani non è inenarrabile, d'accordissimo, ma come dire, Letta si dimette pure lui, ma che fa, ritorna? No, non ritorna, subito dopo c'è un altro, perché là nel PD sono 14 che vogliono fare tutto, no? Vogliono fare, ma no, peggio di Bersani, per fare un governo con i 5 Stelle che proprio ogni giorno devono contrastare Rico Sala, levare la giacca a quello, fare a quella, mamma mia, una cosa divertentissima. No, però, Vincino, qui la questione è, si può, la lezione kazaka, secondo me si può tradurre così, può succedere di tutto, può anche un qualcosa clamorosamente, un che però non si può far cadere il governo perché in questo momento... Prima di tutto Alfano ha trovato Panza, che è stato uno, guardi, che gli ha fatto un compitino perfetto. Capo della polizia. Avere un prefetto come Panza che gli fa i compitini è già questo, perché Panza ha assolto Alfano, si sono assolti a vicenda, come è andata là. Altra cosa è che tutti i treni desiderano una consulenza con i kazaki. Prodi, cose qua, tutti quelli importanti hanno una buona consulenza kazaka, sì. Questa è una cosa, guardi, che oggi... cioè, lei ha la consulenza gas a vita gratis per tutta la vita alla famiglia, nipoti, madonna mia. No, infatti oggi Libero ci torna, anche Panorama lo fa, lì voi di Libero subito a dire adesso tutti che fanno i facili, ben pensanti, ma tutti col Kazakistan hanno fatto, e giustamente, affari, cioè giustamente. Siccome il retropensiero è molto spesso neanche retro, è espresso chiaramente, qui è stato fatto un favore a un amico di Berlusconi, e noi siamo andati a vedere quanto era amico di Berlusconi, quanto era amico di Prodi, quanto era amico di Ciampi, che cosa ha detto Napolitano, che ha elogiato i progressi della democrazia kazaka. Quanto Fassino, Labonino, D'Alema c'entra sempre, ricordatelo, sì, D'Alema c'entra Prodi, sempre. Ma Prodi, secondo molti giornali europei, è a libro paga del il più gasato di tutti Prodi in questa situazione. La battutona di Vincino, è il più gasato, il capitale del Kazakistan, lo sai qual è? No. Alfana, la capitale del No, vabbè, oggi Vincino è impazzito. Alfana invece di Astana. Comunque la cosa di ieri grande è un'altra, Che cosa è successo? Non hanno ritenuto credibile Ciancimino. Aspetta. Allora, prima di arrivare a Ciancimino. La questione Renzi, fa un'intervista alla stampa dicendo fa un'intervista alla stampa dicendo mi sono stancato di questo PD. Pare che ieri Letta abbia chiamato Renzi infuriato. Oggi c'è Cooperlo del PD che dice su Repubblica Alfano si dimetta, faccia un passo indietro. Alla fine crolla il PD invece di il PD. I 12 PD. Questa cosa qui nasce anche da quello, cioè i tempi della cosa kazaka sono fantastici, perché Libero la rivela in prima pagina il 6 giugno, nessuno se la fila fino al 5 luglio. In questo mese qui evidentemente non si riteneva che politicamente fosse spendibile o forse sono venuti fuori i particolari, cioè il coinvolgimento. No, i particolari vengono fuori quando i giornalisti cominciano a lavorarci sopra. Non scherziamo, la vicenda era nota nella sue linee generali grandissime e pasticciate. Dal momento in cui Libero in prima pagina scrive, ma come? Abbiamo Cabobo che va in giro a spaccare la testa della gente senza che nessuno lo prenda, lo metta su un aereo e lo sbatta via, e invece riescono a mettere su un aereo nel giro di 24 ore una bambina di 6 anni e mandarla via. C'è qualcosa che non torna, l'abbiamo scritta in questi termini ed era evidente che c'era qualcosa che non tornava. È che della casacca non gliene frega niente a nessuno. No, infatti, no, ecco, io devo dire questa cosa. Tra l'altro, è la verità, è la verità. Io ieri ho fatto questo tweet, sono stato massacrato da alcuni ben pensanti. Cioè, ho detto: ma secondo voi c'è qualcuno dei intendendo poi in 140 caratteri non è facile, dei giornalisti, dei giornali che cavalcano questa vicenda, che sono davvero interessati alle sorti di una donna e di una bambina kazaka? Non gliene frega niente, non gliene frega niente, cioè è solo uno strumento per politicamente fare. La prova è quella che ti ho detto io. La prova è quella che ti ho detto io. Dopo un mese Renzi ha pensato che questo poteva essere un bel sistema per inserirsi nel casino e magari far cadere lei. Però questo è Vincino, sta sbagliando Renzi, sta facendo bene, sta sbagliando. No, questa qua la sbaglia, perché è come quando un avvocato fa una domanda a un testimone senza sapere quello che cosa, una cosa che lui non sa, no? E può succedere di tutto, questo è il punto. Renzi deve far cadere il governo quando c'è paff, c'è solo le elezioni e lui vince e va. Tu lo sai, se lo fa cadere prima, si trova Epifani per 3 anni. Epifani, no? Epifani, il peggiore governo che possa esistere. Ma peggio Epifani al governo o Schifani al ministero dell'interno, Vincino? Il governo insieme lo vedrei bene tra tutti e due. Epifani, Schifani, via Letta Alfano e dentro Epifani, Schifani. Epifani, devo dire che non male. Guarda. Non male. Allora, voi sapete, qualche giorno fa, Alberto Forchielli, il presidente dell'Osservatorio Asia, una volta vi siete incrociati, De Manzoni, ma lui parla così. No? Ah sì, è quello che parla con i suoi parti intimi. Con le sue... Sì, sì, vabbè, ma lui è così, è un bonaccione. Sentite cosa ci ha detto qui a questi microfoni lunedì di Renzi. Renzi. Allora... Poi Renzi, sia uno con cui non si debba mai fare la doccia, è un altro paio di maniche. Questa cosa vuol dire? Non bisogna... Vabbè, no, se ti scivola la saponetta e ti chiedi, ti cula, sì, lì c'è. Capito? No! È di un'ambizione accidente. Eccola qui, l'immagine è questa, Vincino, abbastanza chiara. La metafora è chiara. De Manzoni è chiara. Sì, è sempre su quei territori lì, però la metafora è chiarissima. È chiarissima. Insomma, devo dire anche abbastanza condivisibile. Se ti scivola la saponetta in doccia. Questo è Renzi secondo Forchielli. Però per Vincino sta sbagliando i tempi. Perché poi lui a te, come dire, deve trovare il tempo esatto, non deve affrettare a fare quella... Sì, ragazzi, però in Italia c'è questa ossessione di Renzi. De Manzoni, sta diventando un'ossessione questa cosa, Renzi. Sì, abbastanza. Perché tutto quello che succede bisogna guardare cosa ne pensa Renzi. Esatto, Renzi. È l'unico che è in campo, cioè a destra non c'è nessuno, nel PD non c'è nessuno, c'è solo lui, da un lato e dall'altro, però non riesce, pur avendo il 93%, non riesce ancora a chiapparselo. cioè tutta la gente è con lui, ma mistero dei misteri, sarà colpa delle poltrone. Questa è terribile, questa che ha detto ieri, cercano le poltrone, non lo so come gli uscita, guarda, che ragazzo è intelligente, ma come dire, vabbè. Comunque, secondo, giusto per chiudere, poi andiamo al traffico segreteria, così poi parliamo di Ciancimino. Dopo parliamo di Ciancimino. L'ultima, secondo il secolo XIX, la trattativa Letta era stata questa. Letta ha detto ad Alfano: dai, dimettiti da ministro, ma rimani vice premier. Proprio la democristianità. E Alfano ha detto: no, non se ne parla. Questo sarebbe rimani vice premier. Una statua di Letta subito. Una statua di Letta, sostituiamo con quella di Andrea. No, la mettiamo accanto, in Milani. Sì, sì. Vabbè, andiamo al traffico, poi c'è la segreteria telefonica e rientriamo a parlare di Ciancimino. Ma voi pensate, alle 6:30 mi tocca parlare di Ciancimino. 24 mattino. Aumento immediato, imposta di bollo. E rinvia a settembre dell'aumento dell'IVA. Così a ottobre pagheremmo più bollo e più IVA. Geni della finanza creativa, Milan, questi sono dei geni. Sono Paolo di Bergamo, grazie Lega Lombarda per aver dato la pensione ai miei consuoceri marocchini, anche se ne sanno cosa siano i contributi. Ma avete lasciato quel povero Silvietto da parte, gli fate godere le ferie a Villa Certosa, ma ora vi occupate della Boldrini, a cui manca di vedere in TV un bel mandingo, perché parità uomo-donna, bisogna mettere un po' di mandinghi in giro sulla TV, così la signora Boldrini non avrà niente da dire. Niente donne, niente uomini, niente Berlusconi. E di che cazzo parliamo ora? Buongiorno Milan, rientro da un viaggio di lavoro tra Parigi e Londra. I miei clienti, gli inglesi, mi hanno chiesto: ma perché voi chiamate Orango uno di pelle nera? Il francese mi ha chiesto: ma cosa è successo per l'espulsione di quell'esule in Italia? Io faccio tiro al piattello, sto pensando veramente di mettere i politici al posto del piattello. Farei 25 su 25 centri, non ho alcun dubbio. Ma io mi arrabbio anche quando sento che andrà in ferie di nuovo dopo aver usufruito di 15 giorni di ferie nel mese di giugno. Perché non parla anche dei privilegi dei giornalisti? Insieme a Calderoli le dimissioni le deve dare anche Darwin. Darwin! Oh, ma ragazzi, ma qui adesso mi devo giustificare. Siamo con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e con il condirettore del male, ecco, Rincino. Ma devo giustificarmi per le ferie? A parte che aggiungo, non ho fatto 15 giorni, sta signora si sta... Ma poi cioè, devo scaricare le ferie. 14. Ma no, non le ho fatte. Poi devo scaricare le ferie. Ma poi sono qui a giustificarmi il fatto che devo andare in ferie. Ma io non lo so. Cioè, ci sarà questa nuova lotta di classe. Preparatevi, De Manzoni. Chi va in ferie è un nemico del popolo. Tra poco, no? E invece chi non va in ferie, no, chi va in ferie è un privilegiato, nemico del popolo. Ah, ti lamenti e vai in ferie. Ma io non lo so, saremo così, De Manzoni. Attenzione, fate un bel pezzo su Libero. Stanno cominciando a fare un po' di confusione tra quelli che vanno con i soldi nostri e quelli che vanno con i soldi dei privati. Cioè, esatto. Sta mescolando un po' tutto, no? Devo andare in ferie. Devo andare in ferie. Vincino, che c'hai con quelli che hanno chiamato? Ah, quello del tiro al piattello, Vincino. È tipo Facchinetti di Italy là, Radio 24, sì. Là, Facchinetti, cosa, no, guarda. Facchinetti, Farinetti, Facchinetti, Farinetti è quello dei Pooh. Vabbè, ma insomma là, ma è una cosa, la devo sentire, io sono affezionato alla vostra radio, però ogni tanto è troppo. Ma vabbè. Chi ce l'ha? Ah, ce l'hai con Farinetti di Italy, che ha detto non farei entrare Calderoli. No, che ha detto per... che quelli sono scimmie e coso, perché dalla scimmia all'uomo e la coscienza è un discorso complicato. Parla di Ciancimino, va, che me... Vabbè, ma cosa dobbiamo dire? Sono non stati hanno creduto a Ciancimino, sono stati... gli è caduto mezzo processo, il processo della trattativa gli è crollato. Sì, sono stati assolti Mori, sono stati assolti Mori, il generale Mori, per la mancata perquisizione del mancato arresto di Provenzano. E quindi per tutti gli analisti il fatto non costituisce reato, questa è la formula. Subito attenzione sul fatto quotidiano, dicono quindi il fatto c'è ma non costituisce reato, però sono stati assolti, questo è il dato di fatto, il che vuol dire che non c'era la base di una trattativa, che è un altro processo, va a cadere un po' così, perché noi i processi facciamo a 3-3 e facciamo un pezzettino prima, un pezzettino dopo, un pezzettino dopo. Aspetta, però gli è crollato Ciancimino, che è il perno centrale. De Manzoni, che vuol dire meraviglioso Ciancimino, che vuol dire quello c'è della di dinamite, insomma, è deflagrato. Lo sta dicendo Vincino, non solo sono stati assolti Mori, ma hanno detto che Ciancimino ha raccontato un sacco di panzane, che è un testimone inattendibile, e hanno rinviato gli atti perché lo processino per calunnie. Però attenzione, non è che... Come le oggettine, peraltro, no? Le oggettine, Ciancimino come le oggettine, praticamente. No, vabbè, ma io non dobbiamo fare il processo, eccetera. Però non è che l'unico testimone della trattativa sia Ciancimino, cioè il figlio di Ciancimino. Cioè non è che si basa tutto e solo sulla presunta trattativa, però una bella fetta, il resto è fumo, il resto è fumo, finirà così, che dobbiamo fare? Non lo so, Vincino, tu Simone, che dici? Martelli? Non lo so, vediamo, quelli credibili, comunque insomma il dato di fatto, che cos'è che c'è, quelli credibili chi sarebbero? Non lo so, guarda che oltre Ciancimino e le sue fotocopie, non è che c'è altro, Poi il problema è che hanno lasciato solo Di Matteo, questo è il punto, ecco, non è che Di Matteo è quello dei processi a Caltanissetta, quelli là, quelli depistati. Lui era il PM dei processi depistati, c'è uno che per 7 anni non capì che davanti aveva depistatori. Comunque questo processo è andato così, a soluzione, poi vedremo. Devo chiedere questo, così chiudiamo la questione. Sentite la Chienghe ha ricevuto i fiori da Calderoli, sentite, spiega che ne ha fatto. I fiori che pure ieri prometteva di inviarle le sono arrivati? Sì, in effetti... Sono arrivati? I fiori, sì. Quando? In effetti i fiori sono arrivati ieri in tarda pomeriggio. E sono arrivati presso il mio ufficio e io ho ritenuto che fosse il caso poi di portare i fiori offrendola alla Madonna del Buon Consiglio. Eccolo lì, li ha offerti alla Madonna del Buon Consiglio, Vincino, questi sono i fiori del Buon Consiglio, tra l'altro la finezza, no? Come dire, che consigli Calderoli la prossima volta alla Madonna del Buon Consiglio. No, ma questa è brava, sa mettere la parola giusta al posto giusto. Sì, devo dire. Ha più stile di Facchinetti là. Farinetti. De Manzoni, alla fine appunto l'avete intervistata domenica, ho visto, ma ecco, anche lì io ho letto l'intervista con attenzione al Libero, ma cosa dice di così male per cui vi arrabatta? Anche qui in questa gestione Calderoli secondo me è stata di una classe esemplare la ministra Chienghe, cioè mi sbaglio? Sì, devo dire che sul fatto Calderoli è rimasta molto ma fredda, ragazzi, ma con tutte le offese, con tutte le accuse, i cappi che gli appendono quando va a Pescara, vorrei vedere chiunque a reagire. Io non ho niente contro la Chienghe nel mio giornale, perché tanto è vero, gli abbiamo dato una pagina, l'abbiamo intervistata, gli abbiamo fatto spiegare le sue ragioni, rimangono delle ragioni che non ci convincono. E va bene, poi le politiche vanno criticate, tutto qui, però... Sono talmente d'accordo che il giorno dopo abbiamo attaccato Calderoli, dicendo che aveva fatto una cretinata. Per esempio, dopodiché Facchinetti, come lo chiama Vincino, si mette sullo stesso piano di Calderoli, perché dire Calderoli non può entrare perché... Per motivi di igiene. Per ragioni di igiene, è il razzismo dell'antirazzismo. Per esempio, chissà che ce l'ha Sartori, effettivamente, che ancora ieri dice un oculista, è stata messa lì un oculista, stavolta... Dentista e oculista era un problema di mala sanità, diciamo. È stata messa questo oculista, cos'è la nuova P3, raccomandata da chi? Beh, non lo so, vabbè. Insomma, mi sembra un po' anche un accanimento. Comunque, tra l'altro, noi oggi alle 8:45 avremo il procuratore capo di Bergamo, Dettori, perché Calderoli è stato aperto un fascicolo d'ufficio per istigazione all'odio razziale. Vi devo salutare, grazie a Vincino, grazie a Massimo De Manzoni, ci troviamo la prossima volta se volete. Quando dopo sarò in ferie, se me lo concede l'ascoltatrice, tra una settimana andrò. Vabbè. Però a giugno non ho fatto 15 giorni, quindi non so dove essere messo in mente. Giornale radio. No. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:16 minuti e noi siamo qui, nuovamente in diretta, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Siamo con Carmelo Lauricella in regia, lo dico adesso, non so se prima l'ho detto, se l'ho detto 2 volte, quindi è meglio così. E allora, oggi parleremo di che cosa? Sapete che io su Twitter un pochino anche mi diletto a dire oggi si conclude l'11ª settimana decisiva per la riforma elettorale. E anche l'11ª settimana decisiva per la riforma delle province. Comunque oggi ne parleremo, perché ieri uno dei saggi, il costituzionalista Francesco Clementi, ha detto guardate che in una settimana, quella decisiva per l'appunto, se si volesse, la legge elettorale si cambia, si riforma in una settimana, è una questione politica. Ma così come quando tutti dicono ma guardate che le riforme, in realtà anche economiche, i provvedimenti, vengono tutti slitti trattati in autunno, ma in realtà se ci fosse una volontà politica si potrebbero fare. Allora di questo vogliamo parlare, del perché si fa o non si fa nulla quando tutti pensano che ci sia una soluzione a portata di mano. È davvero l'inettitudine della politica, l'impossibilità di prendere decisioni politiche che sta bloccando tutto? Ne parleremo, con noi avremo il saggio, appunto, Francesco Clementi, avremo Carlo Stagnaro, avremo anche il procuratore capo di Bergamo, Francesco Dettori, per la vicenda Calderoli, indagato a Bergamo, istigazione all'odio razziale, perché come dire, come dicono in molti, non si parla delle cose da fare e si parla di queste vicende per giorni, la vicenda Calderoli, Chienghe, per esempio. Comunque tutto questo più avanti, tra un'ora. Con i nostri ospiti, ora andiamo a sfogliare i giornali. In questo giovedì 18 luglio le aperture dei quotidiani, Il Sole apre sulla vicenda giudiziaria che ha terremotato la famiglia Ligresti, Fonsai arrestata la famiglia Ligresti, questo è il titolo di apertura, anche del Fatto Quotidiano, i Ligresti in carcere e Tronchetti condannato, quindi mettono le due vicende. Poi la questione politica. È davvero, anche qui si rischia una spaccatura molto molto evidente nel PD per la vicenda kazaka e domani il voto di fiducia o di sfiducia, la mozione di sfiducia al ministro Alfano. Renzi, stanco di questo PD. Questo è il titolo che trovate in prima pagina della Stampa con un'intervista al sindaco di Firenze. Corriere della Sera, PD spaccato ma no alla sfiducia. Repubblica, il PD in rivolta contro Alfano. Il Messaggero, Letta blinda Alfano, PD spaccato. Libero, la verità sull'imbroglio kazako. Questo è il titolo di apertura. Mentre poi abbiamo il giornale, Renzi dice addio al PD. Il Secolo XIX, Alfano nel PD dilaga la protesta. L'Unità, il PD lo chiede, Alfano lasci il ministero. Mentre il Manifesto, si salvi chi può, c'è la foto di Letta e Alfano. Avvenire invece si concentra sul rapporto Istat, questa povera Italia impennata dalle famiglie in difficoltà, l'emergenza soprattutto al sud. Voglio partire però anche oggi col solito appello, tenete le mani strette sul volante, ora vi farò tre nomi, sono i tre nomi di deputati che hanno firmato un emendamento, questi emendamenti in genere compaiono di notte, vengono messi in provvedimenti che non c'entrano nulla con l'emendamento in questione. E l'emendamento è quello che cambia la questione dell'incompatibilità tra i parlamentari e i sindaci di comuni sotto i 5.000 abitanti. Un'incompatibilità che era stata sancita da Tremonti e che doveva entrare in vigore, ma un emendamento strano, un emendamento galeotto, è stato messo in un provvedimento. E allora, sindaci, deputati, un blitz salva la doppia poltrona. Oggi il Fatto Quotidiano a pagina 10 con Sara Nicoli racconta: il favore delle tenebre induce alla tentazione, la tentazione ha avuto il sopravvento nell'istinto di conservazione. Siamo alla Camera, Commissione Affari Costituzionali e Bilancio, notte fonda di martedì, la seduta va da ore avanti e sul tavolo c'è il decreto del fare. All'improvviso il PDellino Ignazio Abrignani tira fuori un emendamento che con lo sviluppo e la disoccupazione ha poco a che fare. L'emendamento è firmato anche da Nico Stumpo del PD e Martina Nardi di SEL. Nel mirino la legge con cui Tremonti aveva sancito incompatibilità di ruoli di governo per chi ricopriva la carica di sindaco. Con un tratto di penna i tre parlamentari ottengono l'obiettivo non solo di cancellare questa incompatibilità, ma anche salvaguardare il ruolo di sindaco per chi è stato eletto parlamentare, a patto che il comune superi 5.000 abitanti, quindi non è quello sotto, è quelli sopra i 5.000 abitanti. Una sorta di tana libera tutti! 18 potranno usufruire di questo i ritardatari, come il primo cittadino di Salerno, Vincenzo De Luca, diventato tra l'altro vice ministro, potranno restare al loro posto. Bella mossa, rivendicata con soddisfazione dallo stesso Abrignani, scrive il Fatto, che comunque si è schermito sulle reali conseguenze del colpo di penna pro casta. In realtà, ha detto, i sindaci parlamentari interessati alla nuova norma sono in tutto 18, una cifra molto modesta. Vabbè, allora siccome sono solo 18 si può fare un emendamento per derogare a questa situazione e modificarla. Come è stato possibile inserire questo tipo di norma in un decreto di matrice economica? Si chiede il fatto semplice. L'emendamento Salva Sindaci prevede che ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento delle elezioni, questa è la premessa, dunque per evitare le elezioni si salvano sindaci incompatibili e le elezioni costano, si sa, e dunque per chi è stato eletto dopo l'agosto del 2011 l'incompatibilità resta, ma se le elezioni si sono svolte prima il sindaco potrà restare in sella fino alla fine del mandato. In sostanza si salvano tutti quei sindaci parlamentari eletti nel 2009. Evviva, evviva! Intanto ieri era prevista, è finita in bagarre con quelli del Movimento 5 Stelle che hanno consegnato tra i richiami del presidente di turno della Camera delle false banconote ai banchi del governo. Come andava a finire la vicenda della mozione di Movimento 5 Stelle che chiedeva ai partiti di rinunciare alla tranche da 91 milioni di euro che verrà distribuita in base proporzionale ai voti presi a fine luglio? Come è finita? Beh, ma era ovvio, è finita che la mozione è stata respinta, era tutto abbastanza previsto. E finanziamento, i partiti avranno la rata 2013, bocciato il testo M5S, così sul Messaggero, così come il Giornale, restano i soldi ai partiti, sfiorata la rissa col Movimento 5 Stelle. E ancora il secolo XIX, i partiti non rinunciano alla rata da 91 milioni, ma il Movimento 5 Stelle lancia banconote, sono state lanciate banconote in aula, si è sfiorata la rissa, rissa verbale, per carità. E i bookmakers non accettavano neanche sconfitte, insomma neanche le scommesse. Quindi tutto rinviato in autunno, tutto, dai provvedimenti economici alle riforme elettorali, tutto. Tranne il finanziamento ai partiti, questo a luglio 91 milioni di euro sono in tasca. A me ha colpito molto, sarà una cosa politically non correct o uncorrect, ma il fatto che, vi ricordate Dolores Valandro, consigliere leghista della Lega a Padova, che ha scritto quella frase terribile, terribile, sul ministro Chieng su Facebook: mai nessuno che se la stupri, questo era il concetto della frase. E beh, io sono rimasto sconvolto a sapere, notizie di tutti i giornali, che questa frase stupida, idiota, assolutamente sbagliata, è costata a Dolores Valandro un processo per direttissima, una condanna a 13 mesi, un anno e un mese di carcere. A me pare un'assurdità, lo dico chiaramente. Offese Chieng, 13 mesi all'ex leghista. Pagina 7 della Stampa, la consigliera padovana Valandro scrisse su Facebook: mai nessuno che se la stupri. Scrive Francesco Moscatelli: Dolores Valandro, condannata per direttissima a Padova, istigazione alla violenza per fini razziali. Questo è il reato che le è stato contestato e per il quale appunto è stata condannata a 13 mesi di carcere. Anche pagina 3 del Manifesto: invocò lo stupro della ministra, condannata a 13 mesi. Sebastiano Canetta e Ernesto Milanesi raccontano che ascolta la sentenza del tribunale, perfettamente in linea con le richieste del pubblico ministero Roberto Dini, piangendo. Dolores Valandro, 58 anni, 13 mesi più 13.000 euro di risarcimento con interdizione ai pubblici uffici per i prossimi 3 anni. Ecco, l'interdizione ai pubblici uffici forse è giusta, insomma, che una persona occupi un posto istituzionale e dica queste cose, su questo posso essere d'accordo. La leghista il 12 giugno 2013 aveva deflagrato su Facebook 18 parole inequivocabili: mai nessuno che se la stupri, tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato. Questo Dolores Valandro, che poi disse una battuta. Oggi la Padania, pagina 5, dedica una pagina a Giustizia Lampo pro Chieng e per le altre quando. Iva Garibaldi racconta sulla Padania reati odiosi, ma non per tutti, qualcun altro può aspettare, mentre la sentenza di condanna a 13 mesi di reclusione per Dolores Valandro per un post su Facebook indirizzato al ministro. Non so come voi la pensiate, ma a me pare, ripeto, assurda la frase, talmente censurabile e incredibile da dover essere condannata da tutti, ma altrettanto assurdo una condanna a 13 mesi di carcere. Tra l'altro Calderoli, vista la vicenda, è indagato. In realtà ci spiegherà, credo, il procuratore capo di Bergamo, che non è ancora indagato. È stato aperto un fascicolo d'ufficio per la denuncia del Codacos, essendoci l'obbligatorietà dell'azione penale. Uno va a denunciare Calderoli, lo ha fatto il Codacos alla procura di Bergamo, e la procura di Bergamo ha dovuto aprire un procedimento d'ufficio. Bisognerà capire ora se verrà indagato oppure no. Che dire, andiamo alla pubblicità e al meteo? Sì, andiamo con una piccolissima chicca che trovate sul Corriere a pagina 14. Oh, Royal Baby, nasce, non nasce? Nasce, non nasce? Io mi sveglio alle 5 del mattino, sarà nato? Non sarà nato? Questo è il mio primo pensiero, alle 5, ve lo giuro, sarà nato? Non sarà nato, Royal Baby? E pare che lo stesso pensiero ce l'abbia la regina Elisabetta, che ha una bambina di 10 anni, racconto ai giornali inglesi, che le chiedeva: regina, queen, Elizabeth, quando nasce? Ha risposto alla regina Elisabetta: beh, spero in fretta, devo andare in vacanza. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, la vicenda politica che tiene banco certamente è quella generata dal caso Kazako. Ormai siamo tutti abituati, abbiamo un po' tutto studiato. Io ho comprato una mappa del Kazakistan 2 giorni fa per non rimanere escluso da questa vicenda, e la vicenda politica è diventata una vicenda politica molto molto seria, perché domani ci sarà la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione nei confronti del ministro Alfano. E che succederà? La domanda politicamente chiave è: visto che ci sono 13 deputati del PD che hanno appoggiato questa mozione, dicono voteremo questa mozione, ecco, il tema politico è questo: il PD rischia davvero di spaccarsi. Letta Blindalfano è estraneo, così Gerardo Pelosi, che ha seguito il premier nostro ieri in Gran Bretagna, pagina 17 del Sole 24 Ore. Ma la questione è Renzi. Matteo Renzi torna oggi in un'intervista, pagina 3 della Stampa, che diventa il titolo di prima pagina. Il titolo è: Renzi stanco di questo PD. Sono stufo del partito, ma non voglio far cadere questo governo. Intervistato da Marco Bardazzi, dice Matteo Renzi, sindaco di Firenze: andare avanti con questo clima di guerriglia permanente è davvero incomprensibile. Tutto parte anche dalla vicenda del mio viaggio a trovare Angela Merkel, mentre sul caso Kazako ribadisce: non voglio far cadere il governo, ma dico a Letta vai in aula a dire la tua, non mi metto a fare il capofila di quelli che vogliono le elezioni o il capofila degli altri. È vergognoso che ieri una trentina di deputati del PDL e anche una decina del PD abbiano fatto dichiarazioni contro di me. Fan tutto per buttarmi dentro le loro vicende quotidiane, cercano alibi. Ho una notizia per loro, dice Renzi, non sono disponibile a essere il loro alibi. Poi parla del viaggio alla Merkel: sono andato con un'idea di Europa che non è quella che vede esprimere qui. Ne avevo parlato con Letta a cena con lui mi ha incoraggiato a fare incontri internazionali. Rispondo anche a Grillo, che mi ha detto che sono andato a baciare l'anello alla Merkel. Sono andato a parlare delle nostre aziende, che nonostante la crisi sono ancora straordinariamente forti, col potenziale per fare meglio. Ma qui Renzi poi dà una notizia in chiusura d'intervista: basta tour europei, mi sono stancato, non andrò in Francia e in Gran Bretagna, non credo che continuerò questo giro, sono veramente amareggiato e deluso dell'atteggiamento del gruppo dirigente del mio partito, che non perde occasione per aprire una polemica con me. E qui dice questa frase molto secca Renzi: sto riflettendo molto. A guardare i giornali dell'ultima settimana sembra che io abbia attentato alla vita del governo almeno 4 volte. C'è un limite a tutto. Mi auguro che nel PD qualcuno faccia una riflessione. E beh, questa intervista a Renzi sicuramente farà ulteriormente discutere, tanto che il giornale già titola così: Renzi shock, pronto a lasciare il PD. Mi vergogno del partito, pensano solo alle poltrone. Questo l'ha detto nel suo intervento, credo, su Facebook. Sta di fatto che nel retroscena raccontato da Londra, dal Corriere della Sera, pagina 5, da Monica Guerzoni, è ieri c'è stato un faccia a faccia, almeno al telefono, tra Letta e Renzi. Il premier ha chiamato Renzi. Il senso della telefonata, che anche su Repubblica viene definita una telefonata di fuoco, è: su questo caso kazako stai rischiando veramente di fare il governo. Nonostante le dichiarazioni ufficiali di Letta, con Renzi non ho alcun problema, ci parliamo continuamente. Questo ancora ieri ha detto il premier a Londra. In realtà la telefonata al sindaco basta, questo è il titolo a pagina 5 del Corriere della Sera, e anche Goffredo De Marchis racconta di una telefonata di Letta a Renzi, una telefonata di fuoco. Anche se in realtà all'interno del PD è tutto un fibrillare, tutto un ribollire, perché anche racconta sempre Goffredo De Marchis su Repubblica, pagina 3, sotto il titolo "Il mandato delle correnti a Epifani, devi convincere Enrico a far dimettere subito Angelino", non è solo Renzi che preme in questo senso, anche Guglielmo Epifani pare che abbia detto, ma insomma... è come la storia di Ruby, nipote di Mubarak. Al Parlamento è stata raccontata una gigantesca bugia. Così al leader democratico la segreteria ha dato il mandato, condiviso da tutte le correnti, di usare le prossime 24 ore prima del voto di mozione di sfiducia contro Angelino Alfano per convincere Letta a far dimettere il ministro dell'interno. C'è ancora in tempo per rimediare a questa assurda espulsione, a questa assurda vicenda. Quindi all'interno del PD non è solo Renzi, tanto che infatti Cuperlo, che è un dalemiano e che è stato è indicato come possibile anche lui candidato alla segreteria del partito dopo Epifani, fa due interviste, una a Repubblica, una all'Unità, e l'intervista, il senso è questo: Alfano lasci, troppe ombre nella sua ricostruzione per salvare il governo, rimetta la delega. Così Gianni Cuperlo, deputato del PD, candidato alla segreteria del partito, chiede le dimissioni di Alfano, questo su Repubblica e anche sull'Unità. E invece Letta che fa? Beh, è straordinario l'articolo di Francesco Verderami, è illuminante per far capire come è la tenuta politica in questo momento. Francesco Verderami racconta sul Corriere della Sera in prima pagina come in realtà Letta e Alfano siano talmente legati come quei due pugili che temono il doppio colpo del KO e quindi serrano i guantoni, no? In fase difensiva. Sentite, nella box la sequenza dell'1-2 prevede un primo colpo al fegato per indebolire la guardia dell'avversario e un successivo colpo al mento per mandarlo al tappeto. Il caso kazako è il colpo al fegato preparatorio al gancio, cioè all'eventuale sentenza di condanna di Berlusconi. Se così fosse, sarebbe difficile per il governo restare in piedi. Perciò Letta e Alfano hanno stretto i guantoni a mo' di protezione, sebbene si sia messi alle corde da soli con una vicenda dai contorni poco chiari. Uscire dall'angolo, scrive Verderami, è possibile, ma solo giocando insieme. Ecco cosa ha spinto ieri il premier a prendere pubblicamente le difese del suo vice prima di ribadirlo davanti al Senato. E così sarà. Letta e Alfano ieri si sono tenuti in contatto tutta la giornata, consapevoli fin dalla mattina che Renzi avrebbe sfruttato l'occasione per lavorarli al corpo, per logorare il governo. In politica gli schemi sono prevedibili ed era scontato che il responsabile del Viminale, Alfano, non avrebbe ceduto dinanzi alle pressioni di un pezzo del PD. Ma questo è il concetto: tenersi insieme e difendersi insieme. E infatti il titolo di Verderami è: la strana coppia serra i ranghi per non far cadere il governo. Molti rievocano anche sul secolo XIX il craxiano primo governare, poi filosofare, no? Che era uno dei motti di Craxi, e altri raccontano proprio democristianamente, no? Si deve tirare, meglio tirare a campare che tirare le cuoia. E il dato di fatto è che così non c'è una inazione politica fermata e frenata da tutti questi scontri anche interni quotidiani, insomma, eppure si reggono, scrive Verderami, come due pugili, Letta e Alfano, stretti all'angolo, ma se crolla uno crolla l'altro, diciamolo francamente, e quindi devono tenersi su. Sulla vicenda kazaka poi ci sono nuovi sviluppi. Libero scrive: quanti ipocriti indignati scoprono ora il cosiddetto dittatore kazako, quando invece tutti andavano da lui. Addirittura l'ambasciatore kazako in Italia, Andrian Yelemessov, scrive alla stampa: non chiamate dissidente il signor Ablyazov, non è un oppositore, non ha alcun seguito da noi. ma è un criminale, un fuggiasco, non è un dissidente, non è un oppositore, è stato pure un ministro fino a quando non è stato colto con le mani nel sacco mentre rubava dal suo paese. È fuggito anche dal Regno Unito non appena un giudice dell'Alta Corte di Londra lo ha condannato a 22 mesi di carcere per aver cercato di nascondere alle autorità inglesi i fondi rubati e per ostacolo alle indagini. Quest'ultima sentenza confermata in appello dalla Corte Suprema del Regno Unito. In breve, scrive l'ambasciatore kazako in Italia, quello che non va dalla Bonino perché dice che è in ferie, in breve il signor Ablyazov è un fuggiasco dalla giustizia in 5 paesi diversi per crimini che spaziano dall'appropriazione indebita di 15 miliardi di dollari americani in Kazakistan all'occultamento di fondi alle autorità del Regno Unito. Si tratta dunque di un criminale in fuga dalla giustizia. Sarebbe opportuno tenere questo a mente quando si riportano le sue dichiarazioni o interviste. Questo è l'ambasciatore Andrian Yelemesov, scrive alla Stampa che il pubblica. Vabbè, c'è una vicenda anche, come dire, di colore, non lo so. Comunque, il Fatto Quotidiano si butta in questa vicenda. Alessandro Ferrucci intervista l'onorevole ex Claudio Barbaro di Future Libertà che dice e racconta quando Berlusconi mi raccontò della sua visita ad Astana, in Kazakistan. Vieni nella dacia, portati il pigiama. Così racconta Barbara, a un certo punto ci raccontò Berlusconi in una di queste cene in cui Berlusconi racconta gli aneddoti, ero lì col presidente del Kazakistan Nazarbayev e ridendo comparvero una trentina di ragazze belle e bellissime, seminude, vestite solo con oggetti metallici, e il Fatto non ci può credere, insomma il bunga bunga in Kazakistan, e sì, e allora sa cosa mi disse Nazarbayev, racconta Berlusconi secondo l'onorevole Barbara in questa cena, Silvio, scegli quella che vuoi di queste 30. E Berlusconi, scusa Nur Sultan, ma la mia religione non ammette la poligamia. Ecco, questo è il racconto di una cena che sarebbe avvenuta, che secondo l'onorevole Barbaro, di Future Libertà, ex onorevole Barbaro, prima PDL poi passato Confini, racconta il Fatto Quotidiano quando Berlusconi andò ad Astana e ci fu questo, in pratica, semi bunga bunga, non racconta se Berlusconi abbia detto di aver consumato oppure no, si ferma proprio l'intervista sul più bello. Comunque, sta di fatto che questo è per la vicenda kazaka, la vicenda politica, domani la mozione di sfiducia. Sono 24 ore nelle quali potrà davvero succedere molto. In tutto questo invece l'economia italiana è sicuramente tutta colpita da, si intreccia con la vicenda giudiziaria. La vicenda giudiziaria è l'arresto di gran parte della famiglia Rigresti, uno dei familiari per la verità in Svizzera e quindi non è stato arrestato, ma l'accusa, occultati 538 milioni di perdite, il caso Fonsai, la procura di Torino chiede l'arresto perché il PM dice che erano pronti a scappare alle Cayman, in arresto tutta la famiglia Ligresti. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, molti giornali dedicano, alcuni l'apertura a questa vicenda che davvero coinvolge una famiglia importante di imprenditori, coinvolge la finanza, la famiglia Ligresti arrestata, l'accusa della Procura di Torino è che Fonsai avrebbe occultato nel bilancio 2010 circa 538 milioni di perdite da sottovalutazioni nella riserva sinistri, cioè negli accantonamenti che ogni compagnia deve mettere da parte a garanzia di risarcimenti. Accantonamenti che la compagnia evitava di fare archiviando forzatamente i sinistri che poi venivano riaperti l'anno successivo. L'arresto è perché i PM dicono rischiava di andare di andare alle Cayman. Paolo Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti, non è stato fermato perché è stato fotografato ieri alla cittadinanza svizzera dal 96 e quindi dice, tra l'altro, l'avvocato non ha alcuna intenzione di lasciare il territorio svizzero dove è al centro dei propri interessi e risiede da anni con la famiglia, tra il fatto che sono stati arrestati tutti, Giulia Maria, Ionella, il padre Salvatore e non appunto Paolo Ligresti che è in Svizzera. È interessante, su tutti i giornali c'è il racconto della dinastia Ligresti, di come è nata, come si è consolidata con gli affari, con le vicissitudini anche giudiziarie. Beh, vi segnalo per esempio uno straordinario articolo di Giuseppe Oddo in prima pagina del Sole 24 Ore. Da Paternò al Salotto Buono, scrive Oddo, l'origine delle fortune di Salvatore Ligresti, uno degli enigmi più appassionanti e più oscuri della finanza italiana. La prima volta che fu intervistato nell'86, l'ingegnere siciliano di Paternò raccontò l'aneddoto del sopralzo di via Savona a Milano, realizzato con un prestito della Comit, che gli avrebbe assicurato il capitale iniziale per edificare il suo impero. Ma la storiella dell'uomo che si è fatto da sé e che in una generazione dal nulla ha accumulato una fortuna è debole, perfino per uno sprovveduto. Quella di Ligresti in realtà è una vicenda tra grandi affari immobiliari, politica, alta finanza, che comincia a metà del Novecento e si snoda fino ai giorni nostri. Don Salvatore approda a Milano, fresco di laurea negli uffici di Michelangelo Virgillito, paternese di razza come lui, agente di cambio, che tra il 50 e il 60 anima la scena finanziaria con scalate di borsa, acquisizioni. A consigliarlo, oltre che ad assisterlo legalmente, un altro compaesano doc, l'avvocato e senatore missino Antonino La Russa, il cui figlio Ignazio salirà poi alla ribalta come ministro della difesa. A un certo punto Virgillito cade in disgrazia, è indebitato, deve alleggerire il gruppo. Qui entra in scena un oscuro ragioniere che gli ha retto il sacco per anni, Raffaele Ursini, con 5 miliardi di lire degli anni 60 pescati non si sa né come né dove. Ursini rileva da Virgillito la Liquigas, diventando uno dei protagonisti dell'industria petrolchimica nazionale. Successivamente acquista dagli Agnelli il gruppo SAI. A dispensare consigli è il solito senatore Antonino La Russa, rimasto depositario di ogni segreto, soprattutto dopo la scomparsa di Virgillito. Negli anni 70 Ursini è in bancarotta, ha fatto le valigie per il Sud America, ma prima di fuggire fa in tempo a cedere a Ligresti il 10% della SAI. Così comincia l'irresistibile ascesa dell'ingegnere. Vabbè, la vicenda continua, c'è stata anche la vicenda di Tangentopoli. Il 16 luglio Ligresti finì a San Vittore per ordine della procura, l'accusa di aver strappato appalti alla metropolitana Milano in cambio di tangenti. Un'inchiesta tira l'altra, scoppia lo scandalo Enisai, in cui sono coinvolti anche Craxi, il segretario amministrativo della DC Citaristi. Insomma, tutta una vicenda anche travagliata, politica e grandi affari, l'ingegnere dei misteri, così titola Giuseppe Oddo, ma tutti i giornali hanno proprio un racconto delle fortune, della crescita finanziaria di Ligresti, e ieri appunto questo arresto. Vauro mette in prima pagina la vignetta dinastie, grandi imprenditori italiani, ci sono tutti Ligresti in manette, la famiglia li arresti invece che Ligresti. E beh, davvero è una vicenda abbastanza clamorosa. Come una vicenda giudiziaria che ha spazio sui giornali è quella della condanna a Tronchetti Provera, Telecom, 20 mesi a Tronchetti. Tronchetti viene intervistato da Raffaella Polato sul Corriere della Sera. A pagina 19, sono stato condannato per aver difeso l'azienda, ricorrerò tutta la vita, se non avessi il carattere che ho in effetti mi sentirei depresso, invece devo risarcire da un lato chi ho difeso, ossia Telecom Italia, e dall'altro il mandante dello spionaggio sull'azienda, su di me e perfino sulla mia famiglia. Quel mandante io lo denunciai, ricevendo tra l'altro dopo l'arresto da parte della procura brasiliana le scuse pubbliche dell'agenzia che aveva ricevuto l'incarico. Insomma, un Tronchetti Provera che si difende al Corriere e dice: mi difenderò tutta la vita. Altra vicenda giudiziaria, l'assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, a Mori, il generale accusato di avere favorito Provenzano mancando, cioè non arrestandolo, e che invece è stato ieri assolto insieme al generale Obinu, anzi il colonnello dei carabinieri Obinu. È un duro colpo anche al processo sulla trattativa, questo come analisi di tutti i giornali, nonostante Antonio Ingroia, ex PM di questo processo, poi uscito quando è andato in politica, dica alla stampa: ma no, non direi che è andata male all'accusa. È vero, c'è l'assoluzione di Mori perché il fatto non costituisce reato dall'accusa di favoreggiamento. È come dire che si tratti di un favoreggiatore a sua insaputa. Insomma, Antonio Ingroia dice di Mori: è un favoreggiatore a sua insaputa perché quei fatti li ha commessi. Una cosa lampo e interessante, rispuntano i Marò. Questo prima dell'articolo di chiusura, che sapete è il nostro premio quotidiano. Interessante questo articolo di Alberto Simoni sulla Stampa. Torna di Marò. Pare che il processo non sia a luglio, come ha detto a questi microfoni Emma Bonino qualche tempo fa, ma slitti a settembre. Ma la fiducia è processo a settembre, Marò a casa entro Natale. Così titola la Stampa a pagina 16. Chissà se sarà vero oppure no. Siamo al momento della premiazione per l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabilissimo giudizio. Oggi siamo su Repubblica, un'intera pagina di Enrico Franceschini a pagina 35, corrispondente da Londra, per dire questo: nessuno dice più thank you. È un sondaggio del Daily Telegraph, questa parola è drammaticamente scomparsa. Le persone non la usano più. 4 persone su 10 pensano che quel grazie sia diventato obsoleto. Usano dunque cheers, cool, wicked, nice one o te, che è T-A, al posto di thank you. E questo è un dramma. È un dramma che merita una pagina di Repubblica. Nessuno dice più thank you, scrive Enrico Franceschini, e la gente vorrebbe, mariti, mogli, capi uffici, ringraziate più spesso i vostri coniugi, i vostri sottoposti. Andate a casa e date un vostro thank you ai vostri bambini. Per favore, fatelo oggi, ma Repubblica ricorda che la carta costa. 24 mattino. Eccoci, sono le 8:16, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sapete, e chi mi segue su Twitter, chi ha questa passione, lo sa, io l'ho appena anche twittato poco fa, tengo il conto delle settimane decisive. Oggi si chiude l'11ª settimana decisiva per la riforma elettorale. È un modo anche un po' provocatorio, se volete, ma una sorta di countdown per parlare di una delle riforme più annunciate mai realizzate negli ultimi anni, no? Capite allora che quando ieri uno dei 34, perché una si è dimessa, 34 saggi voluti dal governo per proporre le modifiche alla Costituzione, ci ha scritto su Twitter dicendo: guardate che per fare la riforma elettorale basterebbe una settimana. Io ho detto: beh, qua non possiamo farci sfuggire l'occasione di capirci qualcosa di più, anche perché la questione è proprio questa, cari ascoltatori, non solo sulla questione della riforma elettorale, sulle riforme economiche. La sensazione che sia tutto molto semplice sulla carta è incredibilmente difficile quando la politica deve mettere in pratica ciò che la carta direbbe, questo in atti concreti. Quindi cosa succede? Tutto slitta, l'IVA in autunno, l'IMU in autunno, gli F-35 decidiamo in autunno, ci sarà aumento dei ticket sanitari, non si sa, si deciderà in autunno. La flessibilità per i contratti dell'Expo, entro il 15 settembre, in autunno. La spending review, adesso arriva il commissario, poi in autunno. Vendiamo gli immobili, ci pensiamo in autunno. Il piano d'abbattimento del debito, ci penseremo in autunno. Le uniche cose che scattano sono le tasse, quelle adesso, e il fatto che al 31 luglio i partiti si intascano 91 milioni di euro di finanziamento pubblico. Tutto il resto in autunno. Allora, è davvero così? Si può fare in Italia e non si fa? Non si fa? Ne vogliamo parlare con il professor Francesco Clementi. Eccoci qua. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Il saggio che ha scritto questa cosa, insegna diritto pubblico comparato a Perugia, è anche editorialista del Sole 24 Ore, è uno dei membri della commissione. Voglio salutare anche il direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, Carlo Stagnaro, che spesso chiamiamo per temi economici. Buongiorno, Stagnaro, ben ritrovato. Buongiorno, e qui rigorosamente nella qualità di non saggio. Non saggio, ma colui che ci potrà aiutare a capire se alcune cose davvero sono facili da fare, sempre che si voglia fare. Allora, professor Clementi, e intanto ci chiarisca questa cosa: capisce che basta una settimana per fare la riforma elettorale è un qualcosa che crea sconcerto, se non altro. Ci spieghi. Allora, io parto da un ragionamento molto semplice. Il testo di un accordo su una riforma elettorale in realtà non è che manchi, nel senso che la scorsa legislatura i partiti si sono esercitati anche con grande capacità di mediazione tra di loro su una serie di testi. Si andava dalla reviviscenza, dal ritorno in campo come Lazzaro, la risurrezione di Lazzaro, cioè il Mattarellum, a un articolo, una norma, un disegno di legge semplice, a una cosa un po' più complessa come era il cosiddetto ispano-tedesco, un mix fra appunto due sistemi elettorali distinti. I partiti su questo avevano in qualche modo già aratissimo il terreno, finì poi la legislatura. Allora il tema, mi chiedo, è un tema tecnico? No, perché guardi, dal punto di vista proprio tecnico ci sono talmente tante proposte già pronte che basterebbe a questo punto solo presentarle in Parlamento. Sì. Punto B. A questo punto è un problema di procedura parlamentare? Beh, insomma, è chiaro, il nostro bicameralismo non è proprio una cosa alla Spiri Gonzales ed è uno dei punti infatti su cui noi nella Commissione Riforme stiamo lavorando e anzi dovrei dire ormai siamo tutti o quasi tutti concordi sul fatto che il bicameralismo deve essere modificato così com'è. C'è una via rapida, diciamo, per farlo? Dunque, la Costituzione impedisce che la materia elettorale venga trattata in commissione in senso stretto. In particolare il 72,4 dice che c'è una riserva in qualche modo d'aula, così si dice, sulla materia elettorale e quindi la procedura normale, le tre letture eccetera eccetera. Bene, c'è una maniera appunto semplice, c'è una schema in realtà che si potrebbe utilizzare, cioè provare a utilizzare quella che si chiama la commissione legislativa per la Camera e la commissione redigente al Senato. Che cosa sono? Sono due commissioni che in realtà si comportano come se avessero tutte le regole dell'aula, delle rispettive aule, sì. Ma la decisione finale appunto viene rimessa all'aula, alla quale prospetta il solo voto finale. Quindi la commissione fa tutta la discussione, fa la votazione articolo per articolo, per essere divertente l'articolo 96 della Camera e il 35 del Senato, così diciamo diamo anche una strada, e l'aula si occupa solo della votazione finale. E questo può essere fatto quando, come, in che tempi? Questo può essere fatto molto rapidamente perché la procedura parlamentare che la Costituzione impedisce di portare attraverso la normale commissione, si chiama la classica commissione diciamo che può decidere esclusivamente in aula, in commissione a cui impedisce la legge elettorale, su questa tipo di commissione, cioè sulla redigente o la legislativa, in realtà questo vincolo sulla legge elettorale non c'è. Allora, tempi. Se il lunedì mattina noi sappiamo già che c'è un accordo politico sul voler fare la legge elettorale, alle 13 si può riunire la conferenza dei capigruppo. Il lunedì alle 13. Cominciamo la lunedì mattina, diciamo. Sempre che la Camera il lunedì. Però facciamo che la Camera il lunedì lavori in questa. Lunedì alle 13. No, ma la Camera è al lavoro, qualche volta lo fa, non ci sono come commissioni, qualche volta addirittura. Cioè. Comunque, quando c'è l'accordo unanime della conferenza capigruppo, e qui chiedo al giornalista. Quale gruppo politico non vuole fare la legge elettorale? Io leggo i giornali come lei da tantissimi anni e mi sembra che non ce n'è uno che non voglia cambiare questo orrido porcellum. Sì. Bene. Allora, se c'è l'accordo del capigruppo, bisogna a questo punto presentare una proposta di legge. Viene presentato quale testo? Uno dei testi sui quali l'altra volta c'è siamo accordati, sì. Serenamente. Questo testo viene presentato, il Presidente dell'Assemblea lo stesso giorno, scusi, il Presidente viene presentato il lunedì nel pomeriggio, il martedì mattina il Presidente dell'Assemblea viene presentato, facciamo un esempio, alla Camera, lo assegna appunto, viene annunciato eccetera, e lo assegna appunto a questa commissione, sì, di cui sopra, perché venga discussa. Cosa deve discutere questa commissione? Allora, qui i regolamenti parlamentari prevedono giustamente una serie di meccaniche, sì, e di tempi per la presentazione degli emendamenti, per la discussione, per i tempi di discussione, ma se c'è un accordo politico, la presentazione degli emendamenti è praticamente potenzialmente riducibile a meno dell'osso, cioè potrebbe nessuno presentare un emendamento. E al tempo stesso si potrebbero evitare anche dibattiti in commissione, quindi professore, si può arrivare, cioè, a fare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, per arrivare a approvarla quando? In una settimana, per l'appunto. Sostanzialmente in una settimana si fa anche direttamente una Camera, ma forse anche già un pezzo della seconda, nel senso che noi potremmo chiudere il mercoledì sera approvata la Camera, il giovedì mattina a questo punto andrebbe al Senato, sì, e il Senato facendo e lavorando fino a venerdì, normalmente i lavori parlamentari arrivano fino a giovedì, sì, sera in commissione. Però diciamo, per l'eccezionalità della cosa della riforma elettorale si potrebbe fare adesso, uno strappo alla regola. Prestissima la cosa, si può arrivare fino al martedì della settimana successiva, cioè, diciamo otto giorni, stiamo larghi, otto giorni. La riforma elettorale si può fare, sì, la riforma elettorale si può fare, però professore, la gente ovviamente dice è la premessa che c'è, l'accordo politico, ma dove lo vede lei? Quindi questa è la questione, è la politica, siamo sempre lì. Il tema è quello, però diciamo, se il tema è quello, allora che anche tra di noi si dica, tra coloro che commentano e seguono queste cose, che naturalmente innanzitutto è tutta una grande bufala questa cosa che ci stanno dicendo sulla legge elettorale. Non che naturalmente tutti noi siamo adulti e vaccinati e sappiamo di cosa si tratti, però siamo in una situazione tale che la politica è debolissima, come è noto, il sistema politico è molto debole, ma questa sua debolezza ormai sta contagiando anche le istituzioni. Sì, l'idea è che su questa debolezza, e qui vorrei coinvolgere anche Carlo Stagnaro, è che su questa debolezza si campi e la politica campi, cioè su questa debolezza e questo non far niente. Adesso non vorrei tirare in ballo lo straordinario Enrico Slitta che fece Giannelli, perché a volte anche la satira può in una frase, in una fotografia, in una vignetta può racchiudere quello che è la sensazione che hanno molti italiani, cioè che su questa debolezza non si faccia nulla. Allora Stagnaro, anche dal punto di vista economico, quali sono le riforme che io ho elencato, le questioni che si faranno in autunno e che si possono legare alla inazione politica, come Clementi ci ha raccontato della riforma elettorale? Ma io sono molto d'accordo con Clementi sul fatto che in prospettiva la riforma elettorale e in generale tutte quelle riforme che vanno a cambiare la forma di governo, a dare più efficacia all'attività di governo e all'attività di legislativa in questo paese, sono nel medio termine necessarie e indispensabili a tirare il paese fuori dalle secche in cui si trova, e che si trova in queste secche proprio perché ha un meccanismo di selezione della leadership e un processo decisionale che si rivelano, come vediamo tutti leggendo i giornali ogni giorno, inefficaci. Una serie di studi economici fatti da Alberto Alesina, Silvia Ardagna, Francesco Trebbi e altri economisti hanno fatto vedere che tipicamente si verificano due cose che sono importanti per noi. Primo, i paesi che hanno un sistema di tipo presidenziale e una legge elettorale di tipo maggioritario tendono ad avere una governance più efficace. Perché? Perché chi viene eletto è, responsabilizzato. Secondo, altrettanto rilevante, i governi che fanno misure di austerità, che abbiano però il loro baricentro nei tagli di spesa e non nell'aumento delle tasse, tendono a non essere puniti elettoralmente, e questi due fenomeni si rinforzano a vicenda. Perché? Perché è chiaro che il cittadino vede che tu ti dai da fare per tenere in piedi la baracca e premi a te, non il tuo partito, per il fatto che ti sei impegnato, oppure punisce te per il fatto che non sei stato soddisfacente. È che, certo. qui c'è una situazione di coalizione un po' strana, un po' nata in circostanze un po' particolari e non capita da molti italiani, e quindi questa idea che non è facile capire con chi prendersela, se non con tutti a questo punto, e questo crea la situazione paradossale per cui, a mio parere, potrebbero fare tutto perché i numeri li hanno, ma non fanno nulla. Questo è il dato, è una situazione abbastanza incredibile, no Stagnaro? Assolutamente, anche qua due considerazioni rapidissime. Prima, una parte delle ragioni per cui ci troviamo in questa situazione sta ancora una volta nella legge elettorale, nella forma di governo, eccetera, eccetera. Secondo, paradossalmente la situazione di oggi, esattamente come la situazione di un anno fa quando c'era Mario Monti al governo, dà sulla carta dei poteri enormi al governo, perché se il Presidente del Consiglio dicesse la mia agenda è settimana 1 legge elettorale, settimana 2 abolizione delle province, settimana 3 riforma presidenziale, insomma quello che vuole lei, e andasse in Parlamento tutte le settimane dicendo prendetevi la responsabilità di votarmi la sfiducia, io sono convinto che chiunque si fosse prendesse questa responsabilità sarebbe gravemente punito dagli elettori. No, e quindi, c'è un tema di prassi politica. No, ma infatti, ma la questione è che nessuno di quelli che sostengono il governo dice vogliamo far cadere il governo, e allora uno potrebbe dire, è straordinario. In Germania l'ha fatto con la grossa coalizione, dove c'era la grossa coalizione è il momento di fare le riforme perché abbiamo i numeri, siamo tutti d'accordo, ci sorreggiamo a vicenda e facciamo le cose. Qui in Italia la questione paradossale, Clementi, è un po' così, che ci sono i numeri e non si fanno le cose. Ma come funziona? Funziona sempre al contrario rispetto agli altri paesi. Dunque, ci sono una serie naturalmente di questioni di all'atere importanti che ci differenziano, però vorrei dire questo, le porto proprio un esempio banale. La nostra commissione, quella sulle riforme, sta procedendo molto bene e i punti di contatto nel merito ci saranno, quindi noi consegneremo certamente un rapporto sulla linea di quello che ci ha chiesto anche non solo il Presidente del Consiglio ma anche il Presidente della Repubblica quando l'abbiamo incontrato, molto chiaro al Parlamento, ma molto chiaro in tempi molto stretti. Ci ho detto qual è il vincolo per la politica per decidere, questo è il tema vero, cioè che cosa può spingere i partiti, la politica a decidere, solo la paura naturalmente di finire nell'angolo. Ma chi è che può metterli nell'angolo? L'elettore, bene, ma l'elettore oggi ha il potere di mettere nell'angolo i partiti? No, può semplicemente non votare ed è quello che noi stiamo vedendo. Fino a che punto noi possiamo permetterci di avere un tasso di astensionismo elettorale così alto? Questa è la vera domanda che la politica deve avere e questa, mi faccia dire, è una delle questioni che il Presidente della Repubblica, quando ha accettato di essere rieletto, ha detto con grandissima chiarezza in uno dei discorsi, credo, nel discorso della Repubblica, quello che ha fatto per la sua rielezione. Secondo me la politica si è dimenticata del discorso del Presidente Napolitano. La politica tutta, cioè, ma la politica è così, si dimentica. D'altronde erano gli stessi che applaudivano. Dobbiamo superare l'Alzheimer, perché gli italiani ormai invece hanno imparato a capire che non si può più campare dimenticandosi della realtà. Ma mi faccia capire, Clementi, prima di andare in pubblicità, si riferisce al fatto che quei parlamentari che applaudivano il Presidente della Repubblica erano quei parlamentari che il Presidente della Repubblica stava prendendo a schiaffoni perché diceva che non avete fatto niente? Esattamente, ed erano anche gli stessi parlamentari a quali oggi il Presidente della Repubblica e ieri per 7 anni il Presidente della Repubblica al quale ha chiesto, signori, il paese brucia, dateci una soluzione, a partire dalla meccanica nel rapporto tra eletti ed elettori. E però sì, sono sempre quelli che applaudivano, dicevano bravo, bravo, e lui stava dicendo non avete fatto niente, bravo, ecco, quello lì. Allora, la pubblicità e il meteo, poi rientriamo con Carlo Stagnaro e il professor Clementi per parlare, anche se volete, 800 24 0024. Ce la dire anche questa, alle 8.45 avremo il procuratore di Bergamo, capo di Bergamo, Dettori, perché mentre ci sono tutte le cose che succedono e che non si fanno, mentre l'Italia certifica l'Istat è sempre più povera, eccetera, c'è questa inazione della politica, da 3 giorni non si fa altro che parlare, non si è fatto altro che parlare, per esempio, di questa vicenda Calderoli, Chieng, per carità, importante. Ora, adesso Calderoli è anche indagato, cioè comunque c'è un fascicolo aperto alla procura di Bergamo e avremo il procuratore che ci raggiungerà tra poco. 24 mattino. Allora, eccoci qua, alle 8.36 minuti. Io non voglio pensare come l'ascoltatore che ci scrive via sms al 349-238-6666, ci scrive, ma è chiaro, questi si sono messi insieme per non fare nulla. Ecco, adesso così bisogna essere malevoli per pensare che Letta e i ministri abbiano come mission per l'Italia quello di affondare il paese. Non neanche Belzebù avrebbe questa idea, stando al governo. Però è chiaro che molti si interrogano a dire, ma com'è possibile che tutto slitti, che tutto non si faccia, che la riforma elettorale siamo lì a conteggiare con Napolitano che quasi disperatamente ogni tanto dice partiti, fate questa riforma elettorale, come fate tutte le riforme. Siamo a parlare con il professor Francesco Clementi, che fa parte di quei saggi che stanno discutendo come cambiare la Costituzione. Siamo con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, da lui vado dopo un ascoltatore, Paolo da Milano ci ha chiamato. Buongiorno Paolo, che pensa? Buongiorno Milan, intanto doverosi complimenti per la sua conduzione. Dica. Io purtroppo penso che non ci sia un progetto dietro, perché se ci fosse saremmo comunque già a metà dell'opera. Io l'ascolto tanto e comunque tento di informarmi. Quello che penso è sostanzialmente che tutte le formazioni politiche abbiano un'unica mission, che sia quella di tentare di portare dei voti alla loro parte, che non sia mai finita la campagna elettorale, che non ci sia mai non sia mai finito il tentativo di portare acqua al proprio mulino, e che quindi tutto quello che succede, compreso la vicenda Chieng e Calderoli, è semplicemente un continuo tentativo di avere il favore, la ricerca spasmodica del favore di quella piccola parte politica che si spera sia ancora questo, da quest'altro partito, e non ci sia la vede solo la ricerca del consenso continuo della gente, consenso che poi, però poi non c'è il progetto politico, non c'è voglia di risolvere i problemi, non c'è minimamente, non c'è neanche probabilmente nelle persone poi che noi comuni mortali vediamo i frontman dei vari partiti politici, sono quelli che non fanno niente, e quelle poche persone di cui abbiamo parlato ieri, che ha parlato e che vengono pagate in una certa maniera, che sarebbero comunque quelle che legiferano, sono, è tutto assolutamente fermo. Ah vabbè, questi non... dipendenti della Camera, cioè i consiglieri dei parlamentari, insomma, l'ha fatto ancora arrabbiare la puntata ieri sui dipendenti della Camera, in particolare i consiglieri parlamentari. Io credo, Stagnaro, forse mi sbaglio, che più che non vogliano decidere, è che è un sistema talmente ingessato che impedisca a chiunque di poter cercare di fare qualcosa. Per esempio, sulle questioni economiche che prima ho elencato, Stagnaro, qual è la cosa che secondo lei che si può fare e invece tutto viene rinviato in autunno? Ma voglio dire, qua c'è l'imbarazzo della scelta e immagino che lei mi dia le prossime 24 ore, ma come dire, per stare all'attualità, ieri il presidente Letta è andato a Londra a chiedere ai banchieri inglesi di impegnarsi a partecipare alle nostre privatizzazioni. Il mio commento è: quali? Nel senso che questa è la classica cosa di cui stiamo parlando da mesi, da anni, da decenni, e fatta salva la stagione, diciamo, della seconda metà degli anni 90, in cui effettivamente qualcosa si mosse, negli ultimi anni poco o nulla è cambiato sotto questo fronte. Però io sono d'accordo con lei, non è un tema di volontà politica dei singoli, forse anche, per l'amore di Dio, ma non è quello il tema fondamentale, è un tema di struttura del processo decisionale. Noi ci troviamo in questa situazione, non riusciamo a cambiare il porcellum, tra le altre cose per colpa del porcellum, al che a me viene un po' da sbrigarmela con una battuta e a valle della battuta con una proposta. La battuta è che se nel processo di specializzazione internazionale del lavoro è venuto fuori che noi sappiamo far bene la pizza ma non siamo capaci di governarci, tanto vale che votiamo anziché per eleggere un Parlamento ogni 5 anni per scegliere quale paese ci deve colonizzare, la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, faccia quello che vuole. Lei fa una battuta, ma guardi che quando si è visto e si è stato scritto che sta per arrivare il commissario nuovo della Spending Review, perché quello fino a 3 mesi fa Bondi non andava più bene, io ho detto la brutta notizia è che sarà italiano, cioè, confidavo molto nella Finlandia, nella Norvegia, nella Danimarca, ma sarà italiano, ecco. Prego. E questo mi porta alla proposta, in realtà, che è molto coerente con quello che dice lei e che è un'idea che avevamo lanciato come Istituto Bruno Leoni già prima delle elezioni: chiedere subito l'attivazione in sede europea dello scudo antispread per l'Italia. Perché lo scudo antispread è una roba complicata che ha una serie di effetti legati all'andamento dei titoli del debito pubblico, ma l'aspetto che mi interessa è che parte dell'accordo sullo scudo antispread è l'obbligo vincolante e strettamente monitorato dall'esterno ad attuare una serie di riforme che poi sono quelle che dicono tutti, sì. Fondo monetario, Commissione Europea, la lettera di Draghi e Trichet, no, io e lei in questo momento, eccetera. Che è un modo per dire: se non sappiamo farle da soli, creiamo le condizioni per essere costretti a farle. Però mi scusi, Stagnaro, vuol dire puntiamoci una pistola alla tempia e così con questa pistola alla tempia siamo obbligati, se no c'è il grilletto che... No? Un po' così. Vuol dire semplicemente: se la gente non rispetta il limite di velocità, mettiamo l'autovelox, e questo con la speranza che una volta fatte, con la speranza e con la ragionevole aspettativa che una volta fatte quelle riforme, allora le cose cominceranno a girare meglio, perché avremo rimosso le cause dell'impasse attuale. Professor Clementi, ci chiede un ascoltatore via sms se il lavoro sarà pubblico. Immagino di sì. L'ascoltatore subito dice: immagino di no, invece sarà pubblico. No, il lavoro è già pubblico. E sarà pubblico le conclusioni che darete? No, tutto il processo è oltremodo pubblico ed è già pubblico. Cioè, se l'ascoltatore va sul sito del governo, in particolare quello naturalmente del ministro per le riforme, cioè, sì, il ministro Quagliariello, trova già il primo verbale della nostro dibattito e tutti i materiali, e via via durante queste settimane noi naturalmente stiamo attendendo tutto, è già pubblico. Tra l'altro aggiungo, diciamo, noi ne abbiamo tanto bisogno anche di un sostegno popolare alle riforme, e allora adesso il governo ha predisposto una specie di questionario online, ma al di là di questo cioè, è il momento, diciamo, che si faccia sentire. Ma il sostegno c'è, professore, ma tutti le vorremmo queste riforme. Cioè, voi avete bisogno del sostegno della politica, voi come tutti, cioè che la politica le faccia, perché il sostegno a farle, ma se ne parla da 40 anni, la riforma del fisco, la riforma del catasto, la riforma, potremmo elencarle tutte, no? La riforma elettorale, le riforme. Però. Guardi, io vedo, per esempio, prendiamo su un altro tema che è legato ma non è diretto, il finanziamento della politica. Sì. Io vedo da questo punto di vista il dibattito in Parlamento sta ristagnando e confido che sia ancora in campo, diciamo, la proposta del Presidente del Consiglio Letta, quella che nel caso in cui non si faccia nulla lui farà un decreto legge. Perché attualmente quello che mi sembra è un gioco a melina dove tra l'uno e l'altro si danno di sponda e alla fine della fiera non si risolve. Decreto legge che poi va convertito in Parlamento. Ma intanto il decreto legge è produttivo di effetti per 60 giorni, poi, per 60 giorni. Poi ci vuole anche un po' di faccia politica a convertirlo. Ma guardi, ma la faccia politica, ieri c'è stata questa mozione del Movimento 5 Stelle, era ovviamente i bookmakers non accettavano neanche scommesse, è stata respinta, per cui a luglio i partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, si prendono 91 milioni di euro. Quello non è rinviato in autunno, quello a fine luglio c'è. Ecco, professore. Questo è vero. Infatti, però questo anche rimane agli atti della politica e rimangono naturalmente anche agli atti le posizioni. La cosa interessante qual è? Che anche la politica al loro interno, come si vede sui giornali anche oggi, è molto divisa. E gli stessi partiti tra di loro hanno più linee. Identificare le linee, in realtà, oggi la politica consente, e a noi elettori, consente anche di identificare chi è responsabile di cosa. Perché io torno a quello che diceva prima Carlo Stagnaro e si diceva insieme. Cioè, il problema vero di fronte che noi abbiamo è questo, è che non possiamo più sopravvivere se non si governa. Questo è governare. Cioè inteso come decidere a un prezzo, qualcuno si accontenta, qualcuno si scontenta. E non si decide, tra l'altro, la politica, perché molti fanno sottolineo questa cosa, da giorni si parla di altre cose, vabbè, la vicenda kazaka in realtà sta diventando una vicenda che rischia di far cadere il governo domani la mozione di sfiducia, ma per esempio per 3 giorni non si è parlato d'altro che della vicenda Calderoli-Chienghe. Io a questo proposito do le informazioni sul traffico, ma tra un minuto è già in collegamento, so che ci ascolta e lo voglio salutare, il procuratore capo di Bergamo, che saluto e ringrazio, Francesco Dettori, e dal quale sono tra un minuto. Allora, eccoci qua alle 8:47 minuti. Procuratore Dettori, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e la ringrazio per questa opportunità di parlare. Noi stavamo parlando con Francesco Clementi, che è uno dei saggi della commissione parlamentare, e con Carlo Stagnaro del fatto che la politica non fa nulla perché, tra l'altro, si parla da giorni di vicende che magari sembrano meno importanti. Allora, intanto ci chiarisco una cosa: il vice presidente del Senato Calderoli, credo oggi sui giornali viene scritta una cosa non giusta. Non è indagato o è indagato, procuratore? Ma è pervenuto all'ufficio un esposto del Codacons, come ha avuto modo di riferire già, e in relazione a questo esposto ho dovuto provvedere, insomma, nel senso che l'ho letto, ne ho valutato i contenuti, gli ho dato una qualificazione giuridica e poi è stato necessario scriverlo come prevede il codice di procedura penale. Quindi c'è l'obbligatorietà l'obbligatorietà dell'iscrizione. Certo. Poi si valuterà, infatti vengono valutati dopo, immediatamente dopo. Ecco, a questo proposito. La formalità dell'iscrizione, della formazione del fascicolo è doverosa. È doverosa, quindi diciamo è indagato perché è stato aperto un fascicolo. Che cosa succede adesso? È stato affidato un fascicolo già a un magistrato? Certo, ho formato il fascicolo, ne ho disposto l'iscrizione e l'ho assegnato a 2 colleghi. Ipotesi di reato? Ipotesi di reato è diffamazione aggravata dalla discriminazione razziale, legge speciale del 93, un decreto legge convertito con legge nel 93, che prevede, come credo lei sappia, la diffamazione in sé per sé procedibile a querela di parte. Nel caso in cui si ipotizzi e la si colleghi a questa aggravante, la legge speciale prevede proprio la procedibilità d'ufficio. Quindi ecco, le dico, c'è anche questa. Per di più deroga, c'è una competenza demandata al Tribunale in composizione collegiale. Senta, la possibilità è che i PM esaminino la questione, la Procura esamini la questione e possa anche dire ma no, ma qui non c'è materia e quindi archiviamo tutto. Sì. Quindi le dico, la valutazione di carattere giuridico è totalmente indipendente dalle valutazioni e dalle discussioni che ci sono state in questi giorni a livello politico. A mio avviso, io seguirò personalmente la vicenda, trattandosi di un reato di opinione, come i giornalisti bene conoscono, va esaminato e valutato con estrema attenzione, equilibrio, prudenza, cautela. Ma non le sembra, sa che molti italiani penseranno, comunque, ma non mi chieda un anticipo di giudizio. No, ai colleghi, e quindi l'anticipo di giudizio no, però molti italiani penseranno, ma insomma, ma non ci sono cose più importanti di cui una procura si deve occupare, sempre per, nonostante la gravità, avrà visto sui giornali, insomma, di quello che ha comportato questa frase, però capisci? Gli ho già dato la risposta. L'iniziativa non è stata dalla procura, è arrivato un esposto dal Codaco e credo che ne arriveranno degli altri, e non potevo non considerarlo. Certo. Ecco, credo che ne arriveranno degli altri, che vuol dire? Cioè, ne sono già arrivati? Ma leggevo sul giornale locale che un certo avvocato, di cui non ricordo il nome, lo avrebbe fatto e l'avrebbe inviato, ancora a me non è pervenuto, probabilmente l'ha spedito per posta, ovviamente confluirà nello stesso fascicolo. Sì. Poi credo anche associazioni, sono notizie che apprendo attraverso i mezzi di comunicazione, i giornali, quindi senza anticipare il giudizio, che per carità è nel dicevo, ovviamente l'ho arricchito, ho chiesto al commissariato competente, il commissariato di Treviglio, che mi mandasse un completamento del tutto, per cui c'è il CD anche delle dichiarazioni, un discorso nel contesto di una festa della Lega, sì. quindi non solo mi è stato trascritto, ma poi potrà essere sentito, quindi per la valutazione, secondo me, anche i toni e tutto. Quanto prenderà? Sono reati delicati, come lei sa. Sì. Per qualcuno andrebbero proprio depenalizzati i reati da prendere. Andrà valutato con cautela, attenzione, prudenza, e quindi poi ovviamente c'è il profilo specifico del ruolo, della veste di parlamentare del dottor Calderoli, che farà, ovviamente, che andrà valutato anche questo. Ma pensate di sentirlo? Cioè, è un'ipotesi anche di sentirlo? Guardi, mi sono limitato ad assegnare il fascicolo, fascicolo ai colleghi, che poi, una volta divenuti assegnatari, hanno una loro autonomia. È chiaro che riferiscono. No, ma è certamente. Hanno dato la delicatezza, però ecco, non è che posso programmare loro. Questo sì. Procuratore, io no, nel salutarla e ringraziarla dico, forse mi pare di capire anche dalle sue parole, che se l'avesse detto in un'altra, nella competenza di un'altra procura, questa frase magari sarebbe stato un po' più contento. Non mi faccia dire quello che io non voglio dire, ci sono delle norme, insomma, dai, ci sono i binari normativi a cui noi sottostiamo, non è che possiamo saltarli noi. No, è chiaro, è arrivato il Codacons, se voi per dovere d'ufficio dovete aprire un fascicolo perché uno presenta una denuncia, che dovete fare. Certo, sì, valutata. Va bene. Io, procuratore, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie al procuratore capo di Bergamo, Francesco Dettore. Arrivederci. Non so, Clementi e Stagnaro. Per carità, Stagnaro, anche questo è uno spaccato dell'Italia, di un qualcosa che... No? Ma sa, anzitutto un minuto di silenzio per quel povero PM che si dovrà assorbire tutto. Sono due i PM, quindi... si faranno coraggio. Questo, francamente, se tutte le volte che uno dice una stronzata bisogna impegnare due PM, il commissariato, l'usciere, quell'altro, eccetera, uno si spiega tante cose. Ma questa frase è perfetta. Leggi, norme, ma infatti questa sua frase è perfetta, Stagnaro. Ha capito perfettamente il perché poi abbiamo inserito in questo discorso la vicenda Calderoli. Cioè, dove vogliamo andare a decidere una riforma elettorale se si impegnano dei PM, eccetera, per una frase gravissima, per carità, detta. No? Cosa vogliamo cambiare dell'Italia se è così? Dobbiamo però cambiare, cioè, intendiamoci. Certo, no, Clementi, certo che dobbiamo cambiare. Sì, cioè, dobbiamo cambiare. Adesso è chiaro che i nostri giornali poi registrano tutto, è giusto che sia così, ed è una vicenda che desta sconcerto. Ci ho detto però, siamo molto chiari e oggettivi, il nostro paese è in recessione tecnica, mi pare di aver capito. E questo governo, che è un governo anomalo ed eccezionale, sta per lì esattamente per provare a risolvere i problemi. E noi consegneremo in tempo, anzi vorrei, credo addirittura prima, perché i nostri lavori stanno andando molto bene. E, cioè quando? Il rapporto della Commissione, credo addirittura ai primi di ottobre, noi abbiamo la scadenza il 15 ottobre, credo ai primi di ottobre. Noi lavoriamo a titolo gratuito, non percepiamo rimborsi, nulla, questo già che ci sono lo dico. Sa che però la professoressa Carla Sara qui ai nostri microfoni 2 giorni fa ha detto, diciamo francamente, è inutile questa commissione. A me dispiace molto, guardi, che lei è andata via. Perché lei, la professoressa Calassara, era una donna, adesso mi faccia fare, insomma, è una persona di grande qualità umana, oltre che naturalmente professionale. Ma infatti lei ci ha detto, io mi trovavo bene, cioè, però francamente, per l'inazione della politica è inutile. Lo sa perché ha fatto un grave errore, secondo me, un grave errore, perché ha inserito un dato politico dove la politica non deve essere. Noi sappiamo che la politica arriverà al momento che dovrà decidere sulle nostre cose, che il nostro lavoro sarà fatto per bene e, come diceva il Capo dello Stato, segnalando i problemi, gli effetti e le conseguenze delle scelte, più la politica sarà messa di fronte alle sue responsabilità. Se ciascuno di noi, che è membro di una commissione ministeriale a titolo gratuito, che ha il compito esclusivamente di preparare un rapporto, si mette lì a fare politica o utilizza gli strumenti della politica per abbattere... Questo è stato un errore. Questa è la cosa che secondo me è un peccato. È stato un errore. Vi devo fermare qui. Prometto di proseguire il discorso, ma intanto vi aggiorno a domattina. QOA Lean Society Forum, 19-20 novembre. Info leancenter.it. Vi ha presentato "24 mattino".